Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, come sentirete già dalle prime note musicali, faremo un lungo viaggio in Puglia per andare a scoprire questa regione che sicuramente sta offrendo moltissimo dal punto di vista turistico, luoghi, bellezze, masserie, ma anche e soprattutto cibo. Cibo, vino, piatti e giacimenti gastronomici. Quindi una regione per molti tutta da scoprire, sicuramente tra le regioni del sud, quella che ha ancora, secondo me, molto da offrire e molto da dare, perché credo che sia ancora poco conosciuta negli angoli più belli, appunto su questi aspetti enogastronomici che stanno emergendo e sono emersi in questi ultimi anni. Ebbene, non c'è solamente la pizzica, non c'è solamente il Salento, che veramente sono passati ormai alla storia, alla notorietà internazionale, ma ci sono molte altre cose da vedere in questa regione. Allora cominciamo questo viaggio e lo cominceremo in una masseria. La masseria Le Fabbriche di Marluggio, in provincia di Taranto, con Alessia Perrucci, che è la patronessa di questa masseria. Buongiorno Perrucci. Buongiorno, buongiorno Davide Paolini, buongiorno. Allora, io so che la sua masseria, veramente le camere danno sulle vigne, e quindi sicuramente produce vino e quindi offre anche turismo del vino, ma soprattutto una grande ospitalità. Ecco, com'è nata l'idea di costruire questo luogo, cioè di costruirlo nel senso che esisteva già, ma appunto di riadattarlo, oppure darle questo tipo di vocazione? Beh, forse la vocazione era già innata in questo luogo, anche perché insolitamente questa masseria è un po' circondata dai vigneti, quando le masserie pugliesi quasi tutte sono sempre in un contesto di oliveti secolari. Questa masseria è un po' così a ridosso della Muggia Tarentina, quindi incastonata in questa roccia molto bella, domina dall'alto questo vigneto che in parte esisteva, anche se io ho raccolto le masse, ho ripiantato sullo stesso patrimonio, perché da parte mia c'è stata sempre un'attenzione fortissima, provenendo da una famiglia di produttori vinicoli, appunto alla vigna e al vino. Quindi questo, mi sono innamorata di questo posto, soprattutto proprio per la sua vocazione dal punto di vista produttivo, per un progetto sul vino condotto in biologico e un progetto appunto di nicchia, però soprattutto di qualità, e siamo nell'area del primitivo di Manduria. Ecco, volevo arrivare a questi. I suoi vitigni sono primitivo di Manduria, quindi? Non solo, io lavoro solo uve a bacca rossa, cioè primitivo ovviamente, che è il vitigno principe di questa zona, ma anche Negramaro, Malvasia Nera, e da qualche anno porto avanti anche un vigneto sperimentale dove è stata effettuata una selezione di 200 biotipi del clone di Aglianico insieme all'Università di Milano e lo staff dei miei agronomi, per Luigi Donna, Angelo Di Vittini, che sono veramente eccezionali, con cui è stata effettuata questa selezione proprio in un'azienda del Vulture, e poi questo impianto è stato effettuato in via sperimentale nella mia tenuta, con l'idea di sposare appunto al primitivo l'aglianico, proprio un connubio tra un vitigno, certo, precoce come il primitivo, un vitigno tardivo come l'aglianico, un connubio ben riuscito, visto che c'è valso nella prima annata prodotta diversi riconoscimenti. Ecco, volevo chiederle questo. Dunque, uno arriva alla masseria, la sua masseria, oltre a bere vino e vedere le vigne, cosa può fare? Beh, la nostra è una, diciamo, abbiamo l'attitudine ad un'ospitalità certamente enogastronomica, per cui cerchiamo coccolare i nostri clienti non solo con il vino, ma con tutto quello che è di supporto, cioè anche con il cibo. Stiamo appunto avviando dei percorsi di cucina virtuosa con una ricerca fatta su tutte le erbe della nostra macchia mediterranea e sul loro utilizzo in cucina. Quindi si può anche mangiare nella sua masseria? Com'è? Si può anche mangiare in masseria. E certo, c'è il ristorante che ha una vista panoramica bellissima perché si affaccia appunto sul mare, e quindi sui vigneti, gli oliveti. Quanti chilometri è dal mare? Ma noi siamo circa in linea d'aria 2 chilometri dal mare, e il mare, devo dire, il mare, il Salento, la parte appunto dello Ionio è eccezionale perché ha delle acque, le acque sono cristalline, sono veramente è una parte ancora sconosciuta alla gran parte dei turisti che vengono in Puglia, ma le acque dello Ionio sono delle acque veramente eccezionali, e chi inizia a scoprire, a venire in questo versante, resta sempre stupefatto da questa meraviglia ancora appunto poco conosciuta. Ecco, cosa può vedere un turista che arriva alla vostra masseria, oltre ovviamente il mare, la vostra masseria? C'è qualcosa nei dintorni di particolarmente interessante da visitare? Diciamo che noi siamo in una zona più o meno che ha la stessa distanza tra Taranto, Brindisi e Lecce, quindi Taranto, il Museo della Magna Grecia, il Museo Marta, di recente ristrutturazione molto interessante, e poi vabbè Manduria col centro che è una città messapica con una cinta muraria, forse quella più intatta ancora esistente risalente a questa civiltà, e poi abbiamo tutte le chiese del Settecento, la chiesa madre di Manduria con la facciata del Cinquecento, insomma voglio dire la Puglia è costellata di risorse archeologiche ovunque, la nostra zona è particolarmente ricca da questo punto di vista. Peccato che sentire queste bellezze appunto che lei ha descritto su Manduria appunto ultimamente sia diventata invece famosa per altri motivi, un vero peccato. Comunque la ringrazio, grazie Alessia, sì, Perrucci. Devo dire che è stato così, è stato dato troppo tutto sommato non c'è stata nessuna inefficienza derivante da questa azione, perché attualmente non abbiamo assolutamente presenza di profughi se non in minima grazie. Parte. Grazie ad Alessia Perrucci, masseria Le Fabbriche a Marruggio, provincia di Taranto. Ora andiamo in provincia di Brindisi, andiamo a Carovigno, andiamo in un ristorante che ultimamente veramente ha cresciuto molto la sua notorietà, è il ristorante Già Sotto l'Arco. Buongiorno Teodosio, buongiorno, mi spiace fare questo gioco di parole. Sono abituato dalla prima elementare, immagino. La prima battuta del professore. Immagino. Senta Teodosio, le faccio una domanda molto secca, se appunto lei dovesse consigliare 3 piatti del suo ristorante a uno che non lo conosce, che magari conosce poco la cucina pugliese, cosa consiglierebbe? Allora, devo premettere che noi siamo un ristorante da 3 generazioni, da osteria, trattoria, eccetera, eccetera, per cui oggi siamo un ristorante con una cucina più moderna e più attenta. Abbiamo fatto un leggero distacco da quella che è la cucina tradizionale della famiglia, per cui i nostri piatti non sono più la classica orecchietta con le rape che ci hanno comunque accompagnato nel nostro percorso professionale fino a qualche anno fa. E facciamo una cucina sempre di territorio, ma secondo noi un po' più moderna o comunque più tecnica. E sicuramente 3 piatti, come mi chiede lei, noi proponiamo... Diciamo, gliela rigiro, 3 piatti sì. Che contengono prodotti del territorio. Il gastronauta. Di nuovo buongiorno, siamo in viaggio in Puglia, stiamo facendo un viaggio tra il turistico e l'enogastronomico. Bene, dopo aver fatto tappa alla masseria Le Fabbriche di Marruggio in provincia di Taranto, ora siamo a Carovigno in provincia di Brindisi, abbiamo con noi Teodosio, buongiorno, che è il patron del ristorante Già Sotto l'Arco, allora al quale ho chiesto di raccontarci magari 3 piatti che contengono realtà diciamo del territorio dal punto di vista dei prodotti. A lei Teodosio. Eccomi qui. Sì, e non è molto facile perché siamo legati a tutti i piatti con lo stesso affetto, un po' come i figli, ma secondo me uno dei piatti, un antipasto, è la burrata, questo latticino, questo prodotto che è un simbolo regionale, avvolto nella pasta cataifi su salsa di pomodoro acerbo e olio al basilico, accompagnato con del capocollo di Martina Franca, patè di olive nere e pomodori secchi. E in questo antipasto, che è un piatto unico, c'è proprio una pugliesità molto, molto evidente. Certo, certo. Poi abbiamo Teresa, che è mia moglie ed è la chef, è sicuramente la colonna portante del ristorante, ha un po' rivisto un piatto tradizionale che ce l'abbiamo tutti nel DNA, ma proprio nell'immaginario collettivo dall'idea di Puglia, che sono le orecchiette con le rape. Lei ha fatto un... che ne pensa? No, dico le orecchiette con le rape oppure il purè di fave con cicoria. Sì, sono cicoria, certo. Noi comunque nei periodi estivi non è possibile proporre le rape, perché non è il periodo, non è la stagione, però le fave cicoria, per tutta la gente che viene da fuori, da tutto il mondo a visitare la Puglia, nel nostro ristorante proponiamo anche il purè di fave cicoria con le olive, insomma con i peperoncini, eccetera eccetera. E dicevo, questo piatto che evoca le orecchiette con le rape sono dei ravioli ripieni di patate con una crema di rape e delle rape saltate all'acciuga con una cialdina al peperoncino, dove ci sono tutti gli ingredienti del piatto classico e tradizionale. Però in una rivisitazione più moderna, più tecnica, ma al gusto rievoca questo sapore atavico che è sempre stato. Poi la carne, le carni in Puglia sono sempre state più carni da cortile e ovini, e noi proponiamo un carré di agnello farcito, ripieno con della cicoria fresca, e poi accompagnato con delle patate e delle verdure saltate in padella. Senta, è un dessert, ce lo racconta? Guardi, noi abbiamo un dessert che abbiamo in carta, ma forse da 15 anni, e che non togliamo mai, che è lo sporcamuso. Ah, bello il nome anche! È bellissimo, perché è un dolce di origine barese. In pratica è una sfogliatina ripiena di crema pasticcera e spolverata di zucchero a velo, che la gente, quando comprava e mangiava per strada con le mani, logicamente l'effetto era quello di sporcarsi le labbra, e di qui sporcamuso, no? La crema per dice tutto sicuramente, questo certo. Dice tutto bene. Diciamo che i vini sono tanti in Puglia. Io amo un vino in particolare, che è il Nero di Troia come vitigno, quindi magari ci consigli un Nero di Troia, così vediamo di accompagnare tutto questo pasto. Guardi, io nelle varie cose che faccio, grazie a questa professione, poi mi sono avvicinato molto ai vini. Abbiamo una cantina con 500 e più etichette, e logicamente con una grande attenzione verso quello che è la regione. E faccio le degustazioni per qualche guida nazionale, poi anche per delle realtà qui vicino. E devo dire che lei ha colto nel segno, e condivido con lei, questa attenzione verso il Nero di Troia, un vitigno che era misconosciuto fino a pochissimo, ma negli ultimi anni sta dando delle cose straordinarie, sta facendo ogni anno c'è una qualità superiore. È difficile in questo momento dare uno solo, perché sono più di tanti, però in questo istante mi viene Rasciatano, per esempio. Sì, certo, certo. Che ha fatto veramente, ecco, diciamo questo, ma ce ne sono tantissimi altri, stanno crescendo tutto, anche un'azienda Torrevento che fa il Vigna Pedale. Anche questo è eccellente, sì. Tanti, veramente interessante. E la qualità media che sta, e questa regione, l'espressione di questa regione sta avvenendo anche nel mondo del vino, nel mondo dell'ospitalità, perché è una regione, io un po' giro il mondo, l'Italia, l'Europa, quando ci capita per lavoro o per piacere, e in questa regione vede il fermento, c'è una crescita esponenziale che dalle altre parti non vede, e questo ci porta ad avere ogni anno delle cose sempre più buone. Perfetto, è una perfetto. Particolare, dottor. L'ho detto prima, l'ho premesso, che secondo me al sud, nel sud dell'Italia, ma oggi forse anche dell'Italia intera, è la regione che sta crescendo, e perché secondo me è stata in ritardo per tanti anni su molte cose, cominciare dall'olio e dal vino, e ora sta crescendo perché ha un qualcosa di naturale, e che sicuramente ha dei giacimenti naturali che sono straordinari. Grazie Teodosio, buongiorno, del ristorante già sotto l'arco di Carovigno. Bene, ora andiamo in una masseria e in un borgo. Andiamo nella masseria San Domenico e andiamo a Borgo Egnazia. Buongiorno a Marisa Lisi Belpignano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, masseria, le chiedo innanzitutto, sì. Perché le masserie All'improvviso in Puglia negli ultimi 20 anni, diciamo che c'è stata questa crescita 15. Di questi 15 anni, di questa crescita. Perché di questa... sono stata la prima, quindi so bene la data d'inizio di questo, di questo boom. Ecco, c'è stata questa. Cos'è successo? Cos'è successo con le masserie? Erano dimenticate e poi all'improvviso sono diventate, come posso dire, paladini del turismo di un certo livello in Puglia, è così? Beh. Consideri che praticamente le masserie erano patrimonio di alcune famiglie, quindi le famiglie possedevano 7-8 masserie, naturalmente non le abitavano tutte, sceglievano quella, eleggevano quella più bella per, le loro, per passarci un mese, sicuramente quando c'era la raccolta dell'ulivo, e quindi non è che venivano abitate dai proprietari. Considerando che noi siamo feudo e siamo stati parte del regno delle due Sicilie, quindi la maggior parte dei nostri territori erano di proprietà di nobili napoletani. All'epoca non c'erano i trasporti di adesso, quindi molti napoletani possedevano queste terre ma non le conoscevano. Quei pochi che si sono avventurati alla fine si sono innamorati della Puglia e sono rimasti e hanno mantenuto la proprietà, altri invece hanno venduto. Naturalmente di questa masseria c'erano i pugliesi che se ne occupavano e che erano poi gli amministratori delle terre, i quali ammassavano, diciamo, il raccolto per poi darne conto ai proprietari che vivevano lontano. Quindi questa parola viene un po' dal latino massa masse, cioè ammassare, quindi massaro che ammassava per proteggere anche dalle incursioni. Certo. Diciamo dei banditi e che naturalmente venivano sia via mare che via terra. Quindi erano delle torri fortificate, dei piccoli borghi fortificati. Poi naturalmente queste famiglie non è che potevano mantenere queste masserie perché le possedevano diverse. Poi nel tempo magari l'amministratore le hanno comprate, certo, e si sono un po' divise queste proprietà. Però erano sempre considerate delle costruzioni che però stavano nel contesto di una proprietà che coltivava ulivi, cioè non si dava importanza tantissimo alla costruzione, perché non erano fattorie dove c'erano gli animali, soprattutto c'erano frantoi e si utilizzavano per il tempo che si faceva la molitura delle olive. Senta, ma esiste una cucina di masseria? Certo, la cucina di masseria è la cucina pugliese, quella vera, cioè la vera cucina mediterranea. Sai che adesso la dieta mediterranea è entrata a far parte del patrimonio dell'UNESCO? Purtroppo. E la nostra zona è proprio la vera cucina mediterranea. Adesso hanno fatto una fondazione qui dalle parti nostre proprio per dare un po' di spazio più anche ai cuochi giovani, di mandare avanti questa la vera tradizionale cucina mediterranea. Mi dica tre piatti della cucina di masseria. Cioè intanto i legumi. Cioè, il piatto forte della masseria sono i legumi, e il legume, essendo una proteina vegetale, fa proprio parte della vera cucina sana mediterranea, perché una volta le carni venivano mangiate una volta a settimana, certo, infatti la gente era molto più sana che adesso, e le carni che si mangiavano erano soprattutto carni bianche, quindi devo dire che avevano un'alimentazione molto molto sana, colesterolo, queste cose qua per loro non esistevano, e quindi naturalmente tutto si basava su le minestre a base di legumi, delle cose che adesso sono tanto di moda, tipo il farro, l'avena, queste zuppe. E poi molte paste fatte in casa, perché naturalmente non è che si andava a comprare al supermercato, cioè c'era il grano, veniva macinato il grano, e quindi poi con l'impasto semplice o con le uova o senza uova si facevano delle paste fatte in casa, poi si faceva il pane fatto in casa, era tutto si produceva nella masseria, che erano delle unità veramente indipendenti, autosufficienti. Ecco, producete ancora buona parte in masseria oppure... Noi continuiamo, perché la nostra è una... cioè è diventato... cioè da quando io ho aperto poi un hotel 5 stelle lusso, però praticamente lo chiamerei un agriturismo di lusso, perché noi tutto quello che si fa è veramente un agriturismo vero, perché tutto viene coltivato nei nostri 200 ettari di terreno, sia gli ortaggi, abbiamo delle bietole, delle insalate, delle cose fantastiche, e l'oliveto, tantissimo oliveto, produciamo olio biologico. Non abbiamo, l'unica cosa che non abbiamo in masseria è il vino, perché naturalmente il vino più buono è in collina, certo, e le masserie, quelle nostre tipiche, sono sulla costa, infatti sono masserie fortificate che difendevano il territorio dai turchi, e il vino è più nell'entroterra. Bene, io la ringrazio Marisa Lisi Belpignano, patronessa di Masseria San Domenico Resort e anche di Borgo Egnazia. il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare della Puglia, di un viaggio in Puglia. Abbiamo toccato varie aree, ora andiamo a Trani. Devo dire che quando sento la parola Trani immediatamente mi viene in mente Trani a Gogò, che negli anni 60-70 in molte parti d'Italia significava vino, significava anche un cibo particolare. Poi c'era sicuramente la canzone di Giorgio Gaber importante sul Trani a Gogò, ma Trani significa anche un posto meraviglioso da visitare, una piazza splendida, secondo me. Bene, allora andiamo a Trani e andiamo in un ristorante di Trani. Andiamo da Alessandro Gallo al ristorante Gallo. Buongiorno Alessandro. Sì, buongiorno. Allora, buongiorno. A Trani, esiste un qualcosa di particolare, di cucina particolare, oppure diciamo si va su altre linee, si va sulla cucina rinnovata, sulla cucina nuova? Ma certo, a Trani la tradizione è sicuramente quella del pesce, quella del pescato di mare che ogni giorno ci arriva sulle tavole direttamente dai pescherecci che operano lì sul porto di Trani, per cui sicuramente ciò che fa da padrona, insomma, sulla tavola del tranese è sicuramente il pesce pescato. Senta, il pesce pescato, pesce azzurro soprattutto? Ma non soltanto pesce azzurro, noi parliamo anche di pesce bianco, parliamo di dentici, parliamo di spigole di mare pescate, parliamo di rombi chiodati, parliamo veramente di tanto altro pesce, non soltanto del pesce azzurro, parliamo di tanto pesce. Ma io ritengo che il pesce azzurro sia un grande pesce, attenzione. Anche se, sì, beh certo, poi è stato rivalutato tantissimo in questi ultimi anni, si trova facilmente anche in tutti quei ristoranti che vogliono, diciamo, far riemergere il pesce azzurro come pesce che ha una certa storia, una certa importanza. Senta, sicuramente c'è un modo particolare appunto di cucinare o il dentice o la spigola, una caratterizzazione appunto di questa portata nel suo ristorante? Ma a noi piace molto sfilettarli e darli chiaramente abbattendoli prima di temperatura, darli come carpacci e quindi crudi, oppure cucinandoli al forno con patate e pomodorini e oliva nera, il classico della cucina, diciamo, nostra, tranese, oppure se ne possono fare chiaramente tantissime di ricette. Io lo faccio con delle cubolezze, per esempio, di verdurina, pomodorino pendolo saltato, la faccio al pan verde, gratinata al pan verde con un'insalata spadellata alle nocciole. E non mi faccia venire fame ora, perché io sono qui ancora e, no, e manca, quindi. Paolini, insomma, ci divertiamo. Bene, ci divertiamo, bene, ecco, grazie Alessandro Gallo, magari presto la vengo a trovare a Trani al Gallo Restaurant. Ora andiamo a Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi, andiamo da Vittorio Muolo, patron della masseria Torre Coccaro e Torre Maizza, due masserie molto vicine l'uno all'altra, in cui credo che la cucina, la prima colazione, tutto sia veramente così fatto al meglio. Ho visto con i miei occhi appunto alcune cose e ho capito che qui veramente la cucina ha un ruolo importante, nonché anche la visita ai mercati, la visita sicuramente ai campi. Buongiorno Muolo. Buongiorno a lei. Volevo chiederle questo, ecco, lo straniero, il turista straniero apprezza molto di vedere il prodotto che viene così coltivato, che viene portato dal campo alla cucina? Beh sì, questo tantissimo. Io le faccio un esempio, è venuto un signore che era penso di Amsterdam, che era un pomeriggio al tramonto, noi abbiamo un bellissimo orto secolare dove c'è tutte le verdure, la frutta, e io l'ho trovato che passeggiava nell'orto 10 minuti dopo che era arrivato in albergo e gli chiedevo: ma cosa stai facendo? Ha detto: sto prendendo aria, sto prendendo un po' di luce di queste parti, perché diciamo tanta gente che vive in città purtroppo non ha luce e comunque c'è l'aria inquinata, e la bellezza appunto della campagna e delle nostre terre veramente. veramente speciale, devo dire. Senta, ma corrisponde al vero che la zona sua, appunto, di Savelletra abbia una delle luci più interessanti per fotografare? Ma guardi, io le dico, noi abbiamo tantissima gente che viene per fare photoshoot durante tutto l'inverno e primavera, e loro dicono che è una luce molto simile a Nord Africa, pur essendo appunto in Italia, che quindi con tutti i vantaggi, insomma, della nostra cultura italiana. È veramente una bellissima luce da questo punto di vista. Poi lei lo sa, ha visto, ci sono degli ulivi che sono quasi più di 1000 anni, sono delle vere sculture naturali, poi il colore della terra che è di un rosso veramente molto ricco, cosa che appunto poi produce tutte queste buonissime verdure che ci sono dalle parti nostre, e come appunto il pesce che parlava il signore del ristorante di Trani prima. Noi cerchiamo comunque di valorizzare un po' tutte queste cose, perché sono comunque cose di altissima qualità. Ci sono dei prodotti molto specifici nella nostra zona, come c'è il pomodorino della Regina, che lo fanno anche nell'oasi di Torre Guaceto, che è un'oasi del MUF fantastica. C'è questo prodotto che è un incrocio fra un cocomero e un melone, che si chiama barattiere, che ha un sapore dolcissimo, che si trova solo dalle parti nostre. Cioè, sono cose che poi un cliente che viene da fuori apprezza tanto, proprio perché è una specialità di una cultura nuova per lui. Senta, insomma, questo barattiere, voi lo servite come frutta oppure viene anche utilizzato in cucina? No, il barattiere viene usato in varie cose. Cioè, ad esempio facciamo un gaspaccio fatto con diciamo il pesce crudo e il barattiere, che è una cosa molto molto fresca durante l'estate, veramente buona. Noi anche nella nostra spa veramente facciamo dei trattamenti viso con il barattiere, sempre perché è una cosa non troppo acida e non troppo aggressiva. E poi chiaramente l'insalata, il barattiere in insalata è comunque veramente buono da mangiare ed è quindi non utilizzato come frutta. Quindi che periodo dell'anno diciamo si trova? Il barattiere più o meno il periodo va da fine giugno a tutto agosto, settembre, più o meno come periodo. Ecco, poi immagino che ci sarà un'offerta di formaggi incredibile, perché siamo sì, in zona. Sì, ma poi vabbè, diciamo come masseria, io ho 3 o 4 masserie di riferimento dove ci sono sia gli ovini che i caprini che diciamo i manzi, i vitelli, e da questi poi noi prendiamo sia la ricotta di pecora, la ricotta di capra, che è anche molto buona perché è poco allergica, perché è allergico al lattosio, no? E poi le burrate, insomma, si sa che dalle parti nostre sono veramente speciali. E poi ci sono questi caciocavalli podolici che hanno veramente dei profumi veramente molto forti, dove si sente appunto la terra delle colline della Murcia. Ecco, a proposito di burrata, devo dire che ultimamente appunto sono stato in Puglia e ho assaggiato una burrata che all'interno ha ricotta invece della stracciatella di mozzarella, e devo dire che l'ho trovata veramente molto interessante, di un caseificio di noci che si chiama Donghia, e mi ha molto colpito perché questa innovazione nella tradizione mi sembra che sia importante ogni tanto innovare anche quello che è il prodotto del territorio, per non parlare delle verdure, perché le verdure credo che ogni anno, cioè ogni mese avete verdure in abbondanza, quindi nella vostra zona. Ancora le puntarelle, le cime di rape sono proprio alla fine, però ancora ci sono, che sono dolcissime. Cioè, le verdure invernali, fra finocchi, sedani, ce ne sono tante, poi incominciano le zucchine, le melanzane, cioè tutta roba che comunque... La grossa differenza rispetto alla verdura che uno trova nel mercato, non so, di Milano, è il fatto che, essendo di stagione e non avendo, diciamo, pesticidi, è molto ma molto più dolce, sembra quasi zuccherata alla fine, insomma. Bene, io la ringrazio, Vittorio Muolo, masseria Torre Coccaro e Torre Maizza. Ebbene, continuiamo il nostro viaggio da Savelletra di Fasano. Ora andiamo in un posto che credo conoscono un po' tutti, perché quando si dice Altamura tutti pensano al pane di Altamura, perché in tutta Italia, ahimè, viene propinato il pane d'Altamura, ma in realtà di Altamura c'è ben poco, c'è il tipo Altamura, quindi però molti fornai lo servono come pane d'Altamura. Sì, certo, magari in qualche panificio di città arriva, magari via Pullman, come mi è successo tanto tempo fa, appunto, di ricevere delle pagnotte via Pullman da Altamura, ma il pane d'Altamura è quello vero, bisogna andare ad Altamura e sicuramente vederlo anche come viene prodotto, con quale cura viene prodotto. E abbiamo con noi uno dei rappresentanti di questo pane straordinario, uno dei pochi pani italiani così di grandissimo livello, che è Nunzio Ninivaggi. Buongiorno Nunzio. Buongiorno dottor Paolini. Allora, c'è ancora molta, diciamo, come posso dire, c'è da fare tanta strada, ecco, ancora, ragione. Bisogna fare tanta strada perché le imitazioni sono tante, vero? Sì, le imitazioni sono tante, soltanto che si trova il pane di Altamura, quello certificato, deve avere il bollino, deve avere. Ecco, bene, specifichiamo del questo. Pane DOP deve avere. Deve avere un bollino dove c'è scritto pane DOP, che è così. Pane DOP, sì, quello è il pane veramente di Altamura, quello che facciamo noi. Senta, ma l'imitazione naturale con il nostro grano delle nostre zone. Ecco, ma quanto le risulta il pane, diciamo, d'Altamura? Viene molto distribuito in giro per l'Italia oppure ne viene distribuito poco e bisogna comprarlo lì? Diciamo che è sempre poco quello che viene distribuito, il vero pane di Altamura che viene distribuito in Italia. Cioè le altre sono solo imitazioni, sono. Se non hai il bollino non è pane di Altamura. Ecco, lei ha parlato di grano locale, ma c'è ancora questo grano locale perché tutti... Certo, adesso lo stanno incentivando anche di più a mettere questo grano. Senta... Queste quattro varietà di grano, che è il duilio, il simeto, l'arcangiolo e l'appulo. Quindi, diciamo, sta crescendo la produzione, quindi per voi, fornai, panettieri di Altamura sarà una manna questo, perché tempo fa non era facile trovare grano locale. Sì, questo è vero, sì, ma la manna non sarà soltanto per i fornai, anche per chi lo semina il grano certificato. Diciamo. Certo, certo. Senta, Nunzio, quanto tempo può durare quello pane vero di Altamura, insomma, quello cotto nella vostra, impastato come impastate voi? A legna, se si ricorda. Sì, me lo ricordo benissimo, il suo forno a legna. Ma le volevo chiedere, quanto dura il pane? Perché in città ci sono pani che alla sera già praticamente diventano delle chewing gum. Volevo chiederle, un pane d'Altamura che si rispetti, fatto con i metodi tradizionali, quanto tempo può durare? Diciamo che una pagnotta di 2 chili dura una settimana. Ah, quindi una settimana. Sì, una settimana tranquillamente. Quindi... Non c'ha più quella fragranza, però è sempre un pane buono. Quindi è sempre consigliabile comprare una pagnotta più grande? Sì, chiaro, perché più grande la pagnotta, più c'è umidità e più tiene, più giorni tiene. E come si può conservare a casa? In un sacchetto? Niente, nella carta o in un canovaccio. Ah, in un canovaccio. In un canovaccio a temperatura ambiente, insomma. Sì, temperatura ambiente. Bene, grazie. Io Nunzio Ninivaggi lo ringrazio, grande panettiere artigianale di Altamura. E Altamura è un altro borgo da visitare, oltre che da comprare pane. Ma ci sono anche delle ottime pasticcerie. E io segnalo la pasticceria Caputo, che tra l'altro fa un grande panettone. Guarda caso, ad Altamura si produce anche un ottimo panettone. Il gastronauta. Continua questo nostro viaggio in Puglia alla scoperta di luoghi, di locali, di ristoranti, di prodotti. Ebbene, questo viaggio non poteva non passare da Montegrosso di Andria all'Osteria degli Antichi Sapori, da Pietro Zito, perché sicuramente questo è il personaggio che più di ogni altro ha valorizzato giacimenti gastronomici, li ha fatti conoscere e li ha fatti anche cucinare. Bene, buongiorno Pietro. Ciao Davide, buongiorno a te. Volevo chiederti, Pietro, mi dici le ultime tue scoperte di prodotti magari che sono ancora poco conosciuti, specialmente al pubblico che non è pugliese? Vabbè, più che scoperte, conoscenza dei prodotti che già abbiamo. Ritrovamento dei prodotti. Ritrovamento di quello che avevamo e non volevamo valorizzarlo perché è troppo povero magari. La terra, insomma, i prodotti geniali della terra. Ma le erbe spontanee, che sono il mio quotidiano. Le erbe spontanee, quindi diciamo che ti stai dedicando a un orto, a quanto ho sentito. I rumors dicono questo. Sì, siamo tornati indietro con i tempi. Ho iniziato 25 anni fa la mia attività, ero perito agrario, sono tornato a fare il perito agrario quasi. Per cui ora produciamo quasi tutto noi, con un bellissimo orto. Di quello che serve alla ristorante tutti i giorni. Ecco, dimmi un'erba particolare che hai ritrovato. Abbiamo ritrovato i semi che mio nonno aveva conservato negli anni 70, per cui abbiamo riprodotto i pomodorini al filo con invernali, i galatini di Andria. Abbiamo riprodotto la zucchina striata pugliese, la bietola nera della Murgia, In più stiamo recuperando le erbe spontanee e le portiamo in cattività, per una questione di conoscenza, anche per i ragazzi. Queste erbe spontanee tutti i giorni le raccogliamo e le serviamo ai clienti, le mostriamo prima. Per cui siamo anche educazione su quello che mangerà poi. Ecco, devo dire che ci vorrebbero in Italia tanti Pietro Zito, perché come avete sentito, cari gastronauti, cari radioascoltatori, insomma qui non c'è solamente un discorso di cercare i prodotti, ma anche quelli di educare, che è la cosa più importante per educare poi a farli riconoscere, a farli mangiare. Pietro, rimani con noi, perché con noi abbiamo anche l'assessore alle politiche agricole della Regione Puglia, Dario Stefano. Buongiorno, assessore. Buongiorno, cari, ciao. Le faccio una domanda cattiva, assessore, è questa. Sì. Negli ultimi tempi si è visto un fermento in Puglia, negli ultimi diciamo anni, nuovo rispetto al passato, perché devo dire, e su questo la domanda cattiva, che per tanti anni la Puglia è stata forse la regione che è riemersa meno al sud della Sicilia, della Campania, dal punto di vista enogastronomico. Poi ora, all'improvviso, ma non è l'improvviso, sicuramente è un processo lento, specialmente nell'olio e nel vino, dove le produzioni sono enormi in questa regione, quindi le potenzialità, diciamo, senza fine, c'è, diciamo, questa ricerca della valorizzazione. Cosa è successo? Ma io credo che sia il frutto di un lavoro, ma che segna anche una svolta di culturale, una svolta di approccio. Abbiamo riacquisito la consapevolezza di una identità antica, che è quella legata al sistema agricolo, all'agroalimentare, quindi all'enogastronomia, una identità antica che ci fa riconoscere in tutto il mondo come produttori di eccellenze, di qualità, di gusto, e che abbiamo coniugato all'interno ormai di un modello di sviluppo che poggia sempre più sul tema dell'enogastronomia e del turismo come elementi di traino di un territorio che è un territorio particolarmente ricco di questa vocazione, ma particolarmente ricco anche di varietà, se pensiamo al tema del vino, se pensiamo al tema dell'ortofrutta, se pensiamo al tema dell'olio. E dei formaggi. Abbiamo un patrimonio importante che oggi finalmente abbiamo recuperato a sistema e che abbiamo messo al centro di un modello di sviluppo. Io dal punto di vista vinicolo dico sempre che si parla sempre di negro amaro, si parla sempre di primitivo. Io sostengo che il grande vino della sua terra è invece il nero di Troia. Ma guardi, anche sul nero di Troia, dopo un impegno importante che abbiamo costruito negli ultimi 2 anni, abbiamo avviato una fase di profonda valorizzazione di un intero territorio sul tema del Nero di Troia. Sono convinto anch'io che il Nero di Troia rappresenti per noi un'opportunità straordinaria, perché è un vitigno autoctono che ha caratteristiche straordinarie, e proprio per questo abbiamo tenuto insieme i territori di produzione, insieme in una nuova DOC, in una DOC ombrello, in una DOC capace di riempire di contenuto la bottiglia, non solo attraverso, diciamo, il vitigno, ma attraverso la storia di quel territorio di produzione, che è una storia antica. Io credo che sul Nero di Troia stiamo lavorando bene, nei prossimi anni avremo un vitigno che esprimerà un grande protagonismo in campo internazionale. Rimanga con noi, voglio fare una domanda a Pietro Zito. Pietro, quanto conta ormai il cibo, il vino, i prodotti che tu diciamo hai riportato alla conoscenza, perché questo è vero, tu sei molto modesto, ma è così, sull'arrivo del turismo? Ecco, io ho l'impressione che oltre le bellezze naturali, le bellezze storiche, architettoniche, il cibo e il vino stiano giocando un grande ruolo per attrarre turismo in Puglia. Senti Davide, io sostengo che la gente viene in Puglia per capire e conoscere chi siamo noi, le persone, la gente, le nostre tradizioni. Di mangiare bene si mangia in tutta Italia, per cui è importante trasmettere la nostra conoscenza a chi viene fuori, viene qui da noi. Vengono per emozionarsi con il cibo, per capirlo, per entrare nel cibo, per conoscere chi lavora, chi sta dietro, per conoscere una storia. Per cui questo turismo è un turismo molto attento. Vengono già preparati da noi, vengono. Quindi un turismo consapevole, tu dici? Molto consapevole, insomma. Non vengono più per riempirsi la pancia, ma vengono veramente per trasmettere il nostro sapere e sapore, insomma. Bene, grazie Pietro, ti ringrazio molto e ti auguro altre scoperte, altre valorizzazioni come tu fai continuamente. A presto. Voglio tornare all'ultima domanda a Dario Stefano sull'olio. Diciamo che la Puglia forse il territorio forse il più grande produttore al mondo in quantità di olio. Non crede che in passato si sia un po' esagerato sulla quantità e su anche un prodotto di bassa qualità? Disperdendo una ricchezza straordinaria? Ma guardi, la Puglia è una delle più grandi terre al mondo per la produzione di olive. La Puglia non è mai stata brava nel trasformare questo potenziale in olio di qualità in misura importante, nonostante abbiamo delle eccellenze. Lo sforzo che stiamo facendo anche qui in tema di olio è quello di robustire la filiera pugliese, di evitare di fare come facevamo un tempo anche con il vino, di dedicare questo nostro prodotto primario ad altre filiere regionali per arricchire di contenuto i loro prodotti. Certo. Sul tema dell'olio siamo un po' più indietro del vino, ma abbiamo messo in campo anche qui una strategia importante che vuole realizzare filiere pugliesi e che vuole trasformare in Puglia una produzione primaria che continua ad essere una produzione di eccellenza, perché propone cultivar assolutamente straordinarie e perché quelle cultivar si nutrono, oltre che di condizioni pedoclimatiche straordinarie, anche di una tradizione antica che stiamo cercando di trasferire alle nuove generazioni. Bene, io la ringrazio. Grazie a Dario Stefano, assessore alle politiche agricole della Regione Puglia. Grazie e a presto. Bene, abbiamo chiuso questo viaggio in Puglia, non solo sulla cucina, sul cibo, sull'olio, sul vino, ma abbiamo scoperto anche dei posti davvero forse anche inediti, perché appunto ci sono degli angoli veramente tutti da scoprire, non solo le masserie, ma anche dal punto di vista storico-architettonico, veramente la Puglia vale un viaggio. E allora io ringrazio in regia Valeria Bernardi, in redazione Anita Panizza, vi do appuntamento domani con il riposo del guerriero e ogni giorno con la pillola del gastronauta alle 11.05 e replica alle 23.05. Buona settimana da Davide Paolini.